di noi rimane il vento. Sarò immobile. Se guardassi nella notte, invisibile il silenzio incombe, come fosse tra la gente il bisogno ricorrente di parole inutili. Sei qualcosa da rifare. Forza che non ho. Sei l'immagine, qualcosa poi tutt'al più ritornerà. Vorrei sentirti dentro. Saprò portarti via da me così velocemente. Mi perdo nella notte complice, come fosse tra la gente il bisogno ricorrente di parole inutili. Sei qualcosa da rifare. Forza che non ho. Sei l'immagine, qualcosa poi tutt'al più ritornerà. Ritornerai.